Ces scènes de violence quotidienne dans la rue se trouvent enfin parmi dans le 18e arrondissement. Le quartier de la Chapelle est viré à la contrebande de cigarettes aux voleurs et aux dealers. Les problèmes ont redoublé avec l'arrivée d'exilés désœuvrés qui passent leur journée vivote de trafic. Tengo solo una mentalité, oh gli sparo, mi spara, bevo solo di legali, io imparo, lui impara. Tengo solo una mentalité, oh gli sparo, mi spara, bevo solo di legali, io imparo, lui impara. Da bimbo il mio giocattolo preferito era una pistola giocattolo. Ora gioco mafia con i boss, lo calcolo. Quanti anni sono l'avvocato del diavolo? Uè uè, volete che collaboro? Ma voi non sapete che da me chi collabora. Alla fine di Bini al primo semaforo si ritrova un boss, il cervello in pappola. Uè uè, cresciuti in fretta perché qua non c'è chi ti aspetta e ti porta con sé. Uè, vivo la vita, vivo la vita. Tengo solo una mentalità, oh gli sparo, mi spara, bevo solo di legali, io imparo, lui impara. Tengo solo una mentalità, oh gli sparo, mi spara, bevo solo di legali, io imparo, lui impara. Da bimbo il mio giocattolo, moro che ricordo non avevo giocattoli. Non ti manca il pane, ti manca tutt'altro bro. Ti mancano i coglioni, fai di portarlo, ho. La maglia ce la farò. Non torno in strada, non torno mai più povero. So che vuoi tornare baby, ma io non tornerò. Ho da fare a fare, conto soldi non tollerò. Non tornerò, chi parla tanto, chi parla poco fa tanto. Chi parla tanto fa niente, chi parla tanto fa tanto. Chi invece non parla proprio, è proprio quella la gente. Fra da tenere d'occhio, fra da stare attenti. Sono il numero uno, trovatemene uno. Chi mi sta sopra lo metto sotto, tu sei sicuro. Chi mi sta avanti lo lascio, avanti lo metto in culo. Chi mi sta dietro rimane dietro senza futuro. Sono il numero uno, mica il numero due. E se c'è un qualcuno, tet a tet nella rue. Ho una 921 pronta a flare per voi due. Non fa come la guerra, non funzionano le tue. Tengo solo una mentalità, oh gli sparo, mi spara, vivo solo di legali, io imparo, lui impara. Tengo solo una mentalità, oh gli sparo, mi spara.